Al-Baina. La prova. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. I miscredenti fra la gente della scrittura e gli associatori non cesseranno finché non giunga loro la prova evidente. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Un messaggero da parte di Allah che legge fogli purissimi. فيها كتب قيمة. Contenenti precetti immutabili. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Coloro cui fu data la scrittura non si divisero finché non giunse loro la prova evidente. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Eppure non ricevettero altro comando che adorare Allah, tributandogli un culto esclusivo e sincero, eseguire l'orazione e versare la decima. Questa è la religione della verità. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. In verità, i miscredenti fra la gente della scrittura e gli associatori saranno nel fuoco dell'inferno, dove rimarranno in perpetuo. Di tutta la creazione essi sono i più abietti. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bariyya. Quelli che invece credono e compiono il bene sono i migliori di tutta la creazione. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dhalika liman khashiya rabbah. Presso il loro Signore, la loro ricompensa saranno i giardini di Eden, dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. Allah si compiace di loro, e loro si compiacciono di Lui. Ecco cosa è riservato a chi teme il suo Signore.